Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovate e ben ritrovati su Valloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, in onda il sabato sui 103.1 FM di Radio Città Fucico e, grosso modo, da lunedì disponibile sul nostro sito www.radiovalloon.info. Puntata solitaria per il sottoscritto e quindi riprendo una rubrica che abbiamo lanciato dallo scorso anno, che è quella di musica e storia. Nei precedenti appuntamenti abbiamo raccontato di Murubutu, abbiamo parlato di Gian Maria Testa, le puntate sono naturalmente disponibili sul nostro sito di cui vi parlavo poc'anzi e in questa puntata ci collochiamo in un periodo che va dagli anni 80 in poi, diciamo. L'anno è il 1982 e la scena è quella di Torino e il gruppo di cui andiamo a parlare sono i Franti, un gruppo che all'inizio è nato come Guerrillas Band, che avrebbe dovuto chiamarsi Radio Morgana, che avrebbe dovuto animare una radio, che si sarebbe dovuta chiamare Radio Morgana, ma che non è mai partita, che si colloca nell'atmosfera del punk degli anni 80, naturalmente, della vivace scena torinese degli anni 80, ma che al suo interno prende altre strade. Il gruppo naturalmente sono i Franti, il gruppo ispirato dal celebre ragazzo cattivo del libro Cuore, che è il personaggio a cui naturalmente tutti si affezionano, che vedeva Marinella Lalli Ollino alla voce, Stefano Giaccone seconda voce e sax, Massimo D'Ambrosio al basso, Vanni Picciola alla chitarra e Marco Ciari alla batteria. È un gruppo che è stato una delle esperienze più interessanti a mio giudizio degli anni 80, proprio per la sua capacità di sperimentare, per la sua capacità di miscelare il grido d'assalto del punk con il folk, lo sperimentalismo jazz e una forte componente narrativa che è quella che ci ha colpito e che ne ha fatto anche un gruppo utile per questa puntata di musica e storia. Testi molto forti, testi molto ragionati e molto riflettuti in cui la componente narrativa occupa uno spazio di primo piano. Una componente narrativa che è anche voce di una rivendicazione politica, voce di riflessione politica, una riflessione politica che non è ideologica naturalmente, ma è una riflessione politica rivoluzionaria. Ricordiamo che Lalli è stata quella che è stata un po' la frontman di questo gruppo insieme a Stefano Giaccone, è arrivata la musica dopo e anche attraverso l'esperienza militante e lo racconta lei stessa in diversi dei suoi scritti, in diverse testimonianze. Ora entriamo subito nella musica e ci andiamo ad ascoltare un brano. E il brano è Le loro voci, tratto dal disco La luna nera del 1982, ed è molto bello perché in questo testo vengono prese in prestito le voci dei bambini della guerra in Libano, ne viene preso in prestito il loro punto di vista per raccontare la violenza della guerra. Buon ascolto. Thank you. Bene, siete sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, questo è Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e in questa puntata di Musica e Storia stiamo raccontando il percorso dei Franti. Abbiamo visto la maniera con cui la band entra nel racconto di un passaggio importante, come è quello stato quello della guerra, che veniva raccontato in presa diretta in quel momento, e che l'ha fatto ricorrendo a un punto di vista particolare, che è quello della vittima. E della vittima che vede piombare dal cielo le bombe. Il percorso dei Franti è stato particolare, molto lungo. Loro non hanno mai voluto fare delle reunion, per quanto il gruppo abbia mutato più volte veste, e ci sono stati dei gruppi, dei nuovi gruppi di cui vi parleremo, ma ci sono stati anche dei percorsi solisti, soprattutto quelli di Stefano Giaccone e Lalli, su cui ci soffermeremo. È un gruppo che ha fatto dell'autoproduzione una caratteristica principale, una marca vera e propria, tanto da poi da aver animato l'etichetta indipendente Blue Bus assieme a Ikina, un'esperienza determinante di questo percorso. Noi, per seguire i percorsi musicali della band, di quello che c'è stato dopo i Franti, andiamo avanti e facciamo un bel salto e andiamo a riprendere gli Isci con Canzone Urgente. Adesso ci ascoltiamo il pezzo e poi ne diciamo qualcosa. Compagno col tuono delle onde che canto, dentro le notti più nere, sulle spiagge vendute al cemento, false parole, false chiese, dentro il sonno di lavoro operaio, marce barriere, io canto la morte nei cessi in stazione, canto le mille africane sui tram, vestite con un destino, comprato poco da un signore nascosto dietro ad un finestrino, comandando un mercato da solo, porta Cristo e il vaiolo. Io canto la pace portata a Baghdad, compagno canto degli occhi di Franti, in mezzo agli sbirri, Mirafiori, Bovisa, Rebibbia, San Paolo del Brasile, lo porto via, lo prendo per mano, accendere un fuoco e poi sparire. Bene, di Canzone Urgente abbiamo sentito una versione cantata da Stefano Giaccone, quella presente nell'album trova la voce Lalli, e gli Isci sono un gruppo molto interessante perché scelgono come nome quello dell'ultimo rappresentante della tribù degli Yai della California, spero di averli pronunciati correttamente, l'ultimo rappresentante prima della scomparsa. Naturalmente gli Isci è l'ultimo rappresentante di una tribù che è stata massacrata dall'uomo bianco. è la canzone che apre il disco Sotto la pioggia del 1994 e che ha veramente qualcosa di programmatico. E sentiamo in questo testo uno sguardo, un volo che viene fatto dall'alto sulla storia, in cui vediamo mondi diversi, ma la voce che ci guida, in questo caso quella di Stefano Giaccone, ci racconta forme diverse della violenza. Vedete, un elemento che torna, e la cosa interessante è che questa violenza viene raccontata in questa canzone in maniere diverse. Viene raccontata come la cementificazione, come lo sfruttamento degli operai, come la violenza della guerra, come la droga, come lo sterminio degli indios, ma tutto sommato, forse anche per il fatto di rimetterci alla figura di Ishii, raccontano sempre una forma di resistenza. Ora vorrei prendere un'altra strada, che è quella del racconto delle esperienze individuali di alcuni dei Franti. Sappiamo che come gruppo è stato un gruppo molto vivace, che ha raccontato molto, che ha prodotto tanta musica. Teniamo in considerazione ad esempio che Marco Ciari ha avuto una bella carriera successivamente anche con i Fratelli di Sol, dall'altro gruppo che ci sta molto simpatico. Noi però ci concentriamo su un disco di Lalli che si intitola Tempo di Vento, con questo pezzo Mostar, che faremo sentire fra poco, non prima di aver preso qualche spunto da alcuni appunti di Lalli del 1994, e che sono stati raccolti in una bellissima pubblicazione edita dalla Stella Nera, non classificato, che riportava alcuni dischi dei Franti e riportava un sacco di materiali molto molto belli. In questo va reso merito veramente alla Stella Nera e a Marco Pandina anche nel particolare, per aver curato molto la memoria e la diffusione della musica dei Franti. E Lalli in questi appunti racconta anche qualcosa che è molto utile per la nostra puntata, che perché racconta della storia. Dice: un tempo fuori determina i tempi in cui viviamo, i tempi della storia ufficiale, un altro tempo, il nostro, fuori anch'esso, fatto di parole scritte su fogli volanti e orecchi al mondo, scandito da musica nostra e notti insonni, rabbia, abbandoni, cicatrici, sforzi per riprendere fiducia. Eppure anche nel nostro tempo a volte si insinua un ammiccare ad una cultura della morte che ci fa pagare prezzi troppo alti per salire il posto nelle hit parade dello spettacolo. Ma fermarsi e ripensare quando si è su di una china scoscesa è difficile. Tutto sembra chiamarci a partecipare al loro tempo. Così sprofondiamo nei luoghi del silenzio, mille sentieri che ci portano per mano i nostri sciamani, in manicomi, carceri, ospedali e nella nostra testa, su qualche palco e nelle case dove qualcuno viene picchiato, nel silenzio ritmato da qualche preghiera, da qualche carezza. Ci guardiamo dall'alto correre in fila indiana tra contadini messicani, nei campi di mais, serpente umano a raggiungere San Cristobal, dove ci aspettano i militari, così da questi sentieri difficilmente si torna. Si resta lì, si cerca di fermare, almeno sulla carta, le ombre e la memoria di un futuro sognato che sembra allontanarsi. Accendiamo un fuoco per leggere poesie, perché le poesie hanno i lupi dentro. E quel sentiero di silenzio sbriciola, scardina tutto quel rumore, corrode i condotti la luccicanza, coi denti affilati la mancanza d'aria e di felicità, e prima o poi riapparirà baluginante davanti ai nostri occhi come vapori di benzina e tornerà ad abbracciare il cielo. Ora ci ascoltiamo Mostar. Thank you. di quel ponte, sai, era anche mio e di un poeta che non voleva morire per i confini dei potenti. Senti la neve, senti la neve. Ci sarebbero venuti dietro per sempre con le nostre ombre, come le nostre orme sopra la neve. Come fredda qui fra le mie dita, aver ascoltato Mostar di Lalli, un pezzo del 1998, e ci iniziamo ad avviare verso la chiusura di questa puntata. E Lalli ha avuto una carriera da solista molto interessante, e sulla nostra pagina, sulla pagina dedicata alla puntata, su www.radiovallun.info, cercheremo di darne traccia e darvi qualche pista per approfondire. E quello del 1998 è un disco molto interessante, pubblicato nel Manifesto, in cui racconta anche qui, quasi in presa diretta, questa violenza che domina la storia, e a cui facevamo riferimento anche con il brano che vi abbiamo letto prima. Si racconta di Mostar, un luogo simbolo della guerra jugoslava, di una guerra che l'Occidente ha fatto finta di non vedere, raccontandoci anche qui una giornata con delle persone semplici che testimoniano con la loro stessa vita, scusate, quello che quella guerra vuol dire, quello che si sente con questa pioggia che ricorda un proiettile, una campana che suona morto nel vuoto di un paesaggio coperto dalla neve. Qui noi abbiamo l'impressione di che cosa sia la guerra, di che cosa significhi e di cosa racconti. Siamo in chiusura adesso, e per chiudere la puntata con una tonalità un po' diversa, facciamo un salto indietro. Siamo andati a prendere un pezzo degli Orsi Lucille, una formazione successiva ai Franti del 1992. Il pezzo è per l'appunto Quel giorno, tratto dall'album 2, che è il secondo LP di questa formazione, ed è una canzone che sembra trarre, ma allo stesso tempo, un bilancio di un'esperienza culturale e politica che si dà anche per chiusa, cioè uno sguardo disincantato, ma allo stesso tempo la consapevolezza dei giorni passati sembra darci una nuova spinta per ricominciare. La sentiremo adesso darci questa spinta per ricominciare con un entusiasmo diverso, un entusiasmo un po' più, anche un po' più maturo. Infatti questo pezzo ci guida piano piano verso questa presa di consapevolezza, che ci lascia con una maggior fiducia sia nella riflessione sul passato, sui tempi della storia, che sulla riflessione per il futuro. Bene, con quel giorno degli Orsi Lucille io vi lascio, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutte e tutti da Frey, e appuntamento a sabato prossimo. Ciao! Arriva quel giorno che capisci il silenzio, i giorni bruciati, il colore rimasto e nero. Arriva quel male di alzarsi al mattino e pensare che il numero è zero. Arriva quel cielo che rimane come avanzo di una festa o di un lento sparire. Mentre scrivi le cose che canti, da qualche parte una voglia d'amore scompare. Arrivano parole come salutarsi per poco, invece sono anni che ti aspettano per anni. Tutto quel che hai è quel riflesso d'estate sulla tua bottiglia in un campo di grano. Tutto quello che vorresti non l'avrai, tutto quello che vuoi non c'è. E tanto che ci pensi, sento di un sorriso, che bello. E tanto che ci penso, sento di un sorriso.